Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Bentornati di nuovo a tutte e tutti su Liberi Dentro Eduradio TV. Oggi è giovedì 29 luglio e noi cominciamo sempre con la nostra rassegna e poi a seguire l'ospite quotidiana tra carcere e città su questo nostro programma che, come ricordo, sempre va in onda su Radio Città Fujiko, Lepida TV e Teletricolore. Io sono sempre Caterina, ma qui con me c'è anche Antonella. Buongiorno Antonella. Ciao Caterina e buongiorno a tutti. Hai da dirci qualcosa? Eh sì, siamo arrivati al 29 luglio e siamo a pochissimi giorni dalla conclusione del crowdfunding. Vi ringraziamo tantissimo perché ci avete permesso di trasmettere anche ad agosto e siamo a buonissimo punto anche per settembre. Quindi continuate con le vostre donazioni, ci mancano pochissimi giorni alla conclusione. Potete contribuire ancora a far entrare la nostra e la vostra voce nelle carceri della regione, della città, semplicemente andando su www.ideaginger.it e cercando il nostro progetto Eduradio TV. Vi aspettiamo e grazie ancora. Caterina, è il tuo turno. Tocca a me con una notizia che riguarda la nostra realtà locale. Siamo a Bologna, è intervenuto sulla stampa Zuppi, giustizia Zuppi non deve essere confusa con la giusta pretesa punitiva dello Stato con la vendetta. Il cardinale arcivescovo di Bologna, Matteo Maria Zuppi, ha dichiarato: è molto più pericoloso lasciare marcire in carcere chi ha sbagliato piuttosto che seguire la via, certo faticosa ma intelligente, della rieducazione, della ricostruzione di un rapporto positivo con la società. Queste parole sono tratte dal volume Verso Ninive, Conversazioni su pena, speranza, giustizia riparativa, un libro intervista di Paola Ziccone con il cardinale Matteo Maria Zuppi e la postfazione di Adolfo Ceretti. Uno tra i primi è Adolfo Ceretti a praticarla veramente questa giustizia riparativa. È perché la giustizia ha il compito di porre rimedio al male e di combatterlo e non deve essere confusa con la giusta pretesa punitiva dello Stato e con la vendetta, chiaramente. Però possiamo chiederci: quando la giustizia si sottomette alla logica della vendetta, è realmente in grado di vincere il male? Perché a volte, quando grosse ingiustizie vengono fatte, ci viene da pensare a una cosiddetta giusta, fra virgolette, punizione. Ebbene, questo dice Zuppi: se la giustizia si limita a essere solo retributiva, quindi rimanendo legata alla logica cieca e senza prospettiva della rabbia e della violenza, non credo, dice lui, riesca a porre termine alla spirale del male, sia dal punto di vista di chi commina la pena, sia dal punto di vista di chi la subisce. Solo l'uscita dall'idea della restituzione del male ricevuto fa sì che la giustizia si apra alla speranza. Senti, e quando è che la giustizia può trovare un suo compimento? Lo può trovare solo se, cito sempre Zuppi, è in grado di ridare a tutti, sia alla vittima, sia al reo, sia alla società stessa, la possibilità di un futuro, di una partenza e di un cambiamento. Se la giustizia si limita alla logica della vendetta, diventa fine a se stessa e rischia di generare un movimento senza fine, che non si estingue mai. Ma c'è un altro limite di cui tenere conto in questa materia così complicata che è la giustizia, perché se si risolvesse semplicemente con il contenimento e la privazione, è ovvio che nessuna persona potrebbe mai sopportare di essere soltanto contenuta senza alcuna prospettiva di un domani. Quindi, aggiunge Zuppi, bisogna anche tenere conto di quella che è la realtà del carcere, che anzi produce solo sofferenza, così come è concepito, quando non mira invece alla rieducazione. Gli spazi di lavoro che sono veramente esigui, poi il problema delle cure psichiatriche ancora da affrontare con i mezzi adeguati, il tasso di affollamento che sta per raggiungere il 120% ci porta ai dati della pre-pandemia e poi come non ricordare la tragedia dei suicidi con un tasso di 11,4 episodi ogni 10.000 detenuti. Quindi in carcere ci si uccide quasi 18 volte in più che in libertà. Quindi insomma dobbiamo vigilare e garantire la salute in carcere, è un diritto fondamentale questo riconosciuto dalla Costituzione. C'è un itinerario faticoso da fare che però permette di uscire da questa situazione, da quello della giustizia riparativa. La giustizia riparativa, lo ricordiamo sempre, non è e non vuole essere sostitutiva della pena, ma è quella giustizia gratuita che nasce da un incontro tra due disperazioni, una che aiuta l'altra. E ne sentirete spesso parlare anche nelle puntate estive, già ve lo anticipo. Rimaniamo con la musica e rimaniamo con i Nomadi. Salve, sono la giustizia. A tra poco. Sono vestita a festa, ho la bilancia per lavorare, prendo in prestito la vostra testa, giusto il tempo per farvi pensare. C'è chi mi vuole comprare, dandomi fama, denaro, potere, ma non so che cosa farmene, perché io servo nostro Signore. Con le tasse ci vado d'accordo, perché abbiamo la stessa pazienza di aspettare sul bordo del fiume quelli che peccano di arroganza. Vivo la mia solitudine cercando nomi sopra una lista. Se c'è una cosa che mi fa sorridere è la sorpresa di chi mi avvista. Con i buoni sono clemente, con i cattivi il tempo dirà, ma per chiunque mi sporchi la veste nessuno sconto, nessuna pietà. Io sono la giustizia, davanti a me sono tutti uguali. Io sono la giustizia, nei giorni dispari e in quelli pari. E tu, se sei un uomo, vivi di onore, amore, coraggio. Le tue leggi troppo spesso sono un vago miraggio. Non ingannare la tua coscienza, della vita sei il servitore. Chiamami ancora più forte, mi troverai dentro il tuo cuore. Ben ritrovati sempre su Liberi Dentro Edu Radio e TV. La parte dedicata alla nostra rassegna estera e anche notizie che riguardano non soltanto quindi l'Italia ma anche argomenti vari oggi è dedicata, la segue Antonella, e parliamo di diritti. Sì, infatti continuiamo a parlare di diritti e anche un po' di giustizia, continuando quello che dicevi tu, Caterina. Perché parliamo della comunità LGBTQIA+, in Senegal, che è stata recentemente vittima di manifestazioni e slogan discriminatorie nella capitale. E, diciamo che l'obiettivo è stato la criminalizzazione dell'omosessualità nel paese. Intolleranze e sentimenti negativi nei confronti di persone omosessuali stanno diventando sempre di più una piaga sociale in Senegal. E infatti in passato il Senegal guardava al Gor Jigen, che sono persone che non rispondevano al classico binarismo uomo-donna, con accoglienza e con rispetto. La loro tradizione prevedeva questo. Ma la situazione nel tempo è molto cambiata. Ho letto un articolo di Valentina Geraci che ha ben caratterizzato la situazione. Infatti dice, accennare oggi alla diversità di genere spesso vuol dire trascurare tutta una serie di aspetti storici, di evoluzioni e di involuzioni. Ancora più spesso è un dar luce ad alcune aree del mondo e a lasciare ombre sulle altre praticamente. L'omosessualità interessa tutto il globo e non è poi una cosa così recente. Ancora prima dell'arrivo dei francesi in Senegal, per esempio, si ricorda nel paese la presenza di alcuni uomini che nell'identificarsi con un genere si allontanavano dalla classe distinzione uomo-donna, ritrovandosi in una sorta di genere alternativo. Si tratta, come vi ho detto prima, dei Gor Jigen, espressione che tradotta dal Wolof indica letteralmente uomini-donne. E quel che emerge è che prima del colonialismo la situazione era ben diversa, c'era molta più accettazione. Ma quali sono le origini di tutta anche questo dibattito che si è creato poi soprattutto negli ultimi anni? Da cosa derivano le leggi contro le relazioni omosessuali? Allora, prima di tutto va chiarito che l'omosessualità dal 1965 è punita in Senegal con il carcere fino a 5 anni e oggi è anche severamente respinta dai nuclei familiari e dalle confraternite religiose, dai villaggi e dalle comunità locali in generale. La sola scelta possibile per vivere in tranquillità, se così possiamo dire, è il silenzio e il nascondersi. perché queste manifestazioni hanno veramente creato molto panico e molta paura nelle piazze di Dakar semplicemente il maggio scorso, quindi non tanto tempo fa. Secondo gli studi dell'antropologo Geoffrey Gorer e anche di un dottorando di ricerche di scienze sociali dell'Università di Padova, Danny Carnassal, i Gorgirgen, nel periodo precoloniale, come ti anticipavo, interessavano il tessuto sociale, venivano accettate semplicemente come genere alternativo, mentre nel corso dell'epoca coloniale cambia moltissimo il continente africano. I codici sociali rigorosamente conservatori dell'età vittoriana circolavano tra i paesi europei e tra i vari aspetti che regolamentavano vi erano anche i comportamenti sessuali, ovviamente. Le leggi contro l'omosessualità furono quindi severamente applicate e imposte in Africa tra le proprie colonie. E in realtà, come anche spiega uno scrittore che si chiama Babacar Bayenel, gli omosessuali e i transessuali in Senegal sono stati fin dai tempi coloniali identificati come una sorta di capro espiatorio in risposta alla cosiddetta missione civilizzatrice francese, e poi sono sempre stati considerati un po' come stranieri all'interno del loro stesso paese. E anche quando l'Europa iniziò a concedere l'indipendenza alle sue colonie, la maggior parte dei nuovi stati africani mantenne un'architettura politica di stampo coloniale. Hai parlato dell'epoca della colonizzazione di questi paesi, tuttavia è già da diversi decenni che questi paesi africani hanno conquistato la loro indipendenza. E tuttavia sembra che rispetto all'Europa si cammini un po' a due velocità. Come mai? Una delle possibili interpretazioni, Caterina, è ricollegabile proprio alla scelta dei leader politici e religiosi che vogliono avere maggiori consensi. Sembra banale, ma è così. Comunque, i protagonisti delle manifestazioni che hanno interessato le strade di Dakar alla fine del mese scorso, pensate, sono coloro che si battono contro l'omosessualità da una parte, ma anche per i diritti e quindi per i valori umani, per i diritti civili. E quindi c'è questo paradosso, voler combattere per i diritti, ma contro l'omosessualità. Stando in tema di diritti, lancerei una canzone molto bella che si chiama Solidarité, e in questo gruppo che la canta c'è anche la nostra amatissima Fatoumata Diawara. Ascoltatela, è bellissima. Liberi Dentro e Eduradio TV, un ponte tra carcere e città. Una diversa narrazione dell'universo carcere. In linea con il mandato costituzionale, le pene devono tendere alla rieducazione delle persone ristrette. L'estate in carcere è un tempo infinito di solitudine, abbandono e caldo. Dobbiamo veramente fermarci qua? Aiutateci a continuare a portare le nostre voci nelle carceri dell'Emilia Romagna. Ponte Comune abbiamo coinvolto tante associazioni di giovani da Faenza e non solo per portare ad Eduradio ciò che ci piace fare. Come Teatro dell'Argine, per Eduradio abbiamo fatto incursioni di storia del teatro e lezioni teatrali. L'altro diritto, insieme a Eduradio, ha cercato e cercherà di portare l'informazione giuridica in carcere. Sostieni Eduradio e TV. Aiutaci a mantenere attivo questo ponte fra carcere e città. Per donare, collegati alla piattaforma www.ideaginger.it e cerca il progetto Eduradio TV. J'ancrais l'espérance aux racines de ma vie. Planter des flambeaux à la lisière des nuits. نفس الشمس بتشرق علي وعليك نفس النجمة بعيوني بتضوي بعيني sem querer, faz com que a bondade se instale sem saber. Com boa vontade. vontade, vamos estender as mãos, promovendo a união pra poder melhor viver. La grande ville nous a plongé dans sa cohue. Dehors, y'a pas d'étrangers, y'a que des inconnus. Solidarité, voilà ce qu'on est venu demander. La beauté n'a pas de frontières, les frontières n'ont pas de beauté. Nous sommes les nouveaux rois, nous sommes les nouveaux rois, nous sommes les nouveaux rois. Vous êtes les nouveaux rois, vous êtes les nouveaux rois, vous êtes les nouveaux rois. Rieccovi, bentornati di nuovo a tutte e tutti, sempre su Liberi Dentro di Radio TV. La nostra ospite di oggi è Paola Ziccone. Buongiorno Paola. Buongiorno a tutti. Laureata in giurisprudenza, specializzata in diritto minorile, esperta nella gestione amministrativa e organizzazioni complesse, che ha diretto per 10 anni il carcere minorile del Pratello qui a Bologna ed è dipendente tuttora del Ministero della Giustizia. E ti abbiamo ospitata in redazione Liberi Dentro di Radio perché nell'apertura delle notizie di rassegna stampa parlavamo del libro che hai scritto, un dialogo con l'arcivescovo Matteo Zuppi dal titolo Verso Ninive, conversazioni su pena, speranza, giustizia riparativa, edito da Rubettino Editore. Un libro che tratta in particolare anche il tema della giustizia riparativa. Ma da dove nasce l'idea di scriverlo e come mai questo titolo, Verso Ninive? Allora, nasce dal fatto che abbiamo vissuto in tutto il mondo qualcosa che ci ha reso simili, che appunto è stata la pandemia, che ci ha tutti messi in una situazione di costrizione, di mancanza di libertà e certe volte forse anche di speranza. E allora questa percezione ha fatto sì che potessi pensare che forse questa sensazione, questa cosa comune ci ha legato tutti quanti, potesse essere la base per far capire, per capire tutti insieme meglio che cosa vuole dire il carcere. Perché l'esperienza del carcere, a mio parere, è una di quelle esperienze che le persone non possono riuscire neanche ad immaginare. E allora, invece, non solo immaginare, ma proprio poter sentire la stessa cosa contemporaneamente, mi sembrava che fosse l'occasione per poter far comprendere a tutti quello che io conosco molto bene, perché per molti motivi il carcere lo conosco molto bene, non soltanto perché ci ho lavorato, lavoro tuttora per i ragazzi che finiscono, diciamo, a commettere dei reati, ma in qualche modo fa parte proprio anche della mia vita, perché lo spiego nel libro, insomma io lo conosco da bambina, il carcere, non perché sia figlia di un detenuto, ma perché sono figlia di un direttore. E questo in qualche modo è un'esperienza umana che per la quale io sono molto grata alla vita, che mi ha consentito di parlare di qualcosa che per me è normale, e quindi forse questa barriera che c'è sempre, questo muro che c'è sempre fra le persone, fra il dentro e il fuori, forse una chiave di lettura per capire come si può fare a non continuare a mantenerla in piedi è proprio anche la mia esperienza professionale, la mia esperienza di vita, che dà una chiave di lettura per come fare a non sentirsi separati. Questo, diciamo, è la motivazione principale che mi ha sempre poi portato a dialogare con tutti, insomma, di carcere, quindi non solo a lavorarci, ma a cercare proprio di farsi capire. Poi c'è la questione della giustizia riparativa, che è un incontro che io ho fatto più di 20 anni fa con il professor Ceretti, che è uno dei massimi esponenti a livello internazionale della giustizia riparativa, che mi ha fatto il regalo di scrivere la postfazione di questo libro. E poi l'idea di parlare con il cardinale Zuppi, che poi ha originato, diciamo, questo titolo che io ho sentito subito mio. Grazie, infatti per questo torniamo tra poco dopo la musica e approfondirai proprio questo ospite, questo dialogo con il nostro arcivescovo Zuppi. A tra poco. And admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win. For the times they are a-changing. Some senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are. E rieccoci, bentornati sempre su Liberi Dentro Eduradio. Come vi dicevo all'inizio, siamo in compagnia di Paola Ziccone, che ha scritto questo libro dialogo con l'arcivescovo Matteo Zuppi verso Ninive, conversazioni su pena, speranza, giustizia riparativa, appena edito con Rubettino Editore. E questo dialogo per l'appunto con il vescovo Zuppi è un ospite, diciamo, nel tuo libro molto speciale. Ha partecipato anche a molte puntate su Liberi Dentro Edu Radio, e mi chiedevo come mai la scelta di questo interlocutore per trattare questi temi. Beh, il cardinale Zuppi, anzitutto nella nostra città, ma non soltanto nella nostra città, è un punto di riferimento fondamentale per tutti tutti gli ultimi, e quindi anche non gli ultimi, insomma tutte le persone che comunque hanno un approccio solidale, insomma di cittadinanza proprio nel senso pieno della parola. E quindi per me poter immaginare di parlare con lui, molto attento appunto anche alle tematiche del carcere, è stato, diciamo, abbastanza immediato. E da credente ovviamente era anche interessante poter condividere con lui alcune riflessioni, da credente e da cristiano, no? Come lui sta dicendo tra l'altro in questi giorni. In più il cardinale è molto esperto di mediazione, perché ha avuto un ruolo molto importante a livello internazionale quando faceva parte della comunità di Sant'Egidio, di alcune occasioni di mediazione fra popoli in guerra in Africa. E quindi, cioè, questo per me era un segno importante. Se io potevo parlare con lui, voleva dire che il libro poteva anche avere una certa possibilità di andare avanti. E quindi così, nel parlare con lui, lui ha citato questo episodio noto della città di Ninive, in cui appunto Giona, il profeta, si arrabbia moltissimo con Dio perché decide di perdonare la città di Ninive. Lui si arrabbia molto per questo motivo. E quindi questo è stato, diciamo, un esempio di giustizia non retributiva ma riparativa, che in qualche modo ha operato il Padre Eterno. Ecco, Il titolo per me quindi è stato immediato, Verso Ninive è qualche cosa, è quasi un obiettivo a cui tendere come cittadini, cioè come cittadini e come appunto cultori di una giustizia che non può essere vendetta, così come lo segnalato dalla nostra Costituzione, perché la giustizia non ha le caratteristiche della vendetta, deve avere le caratteristiche proprio della comprensione, dell'imparare a sanare quelle fratture terribili che sono comunque date da un reato. Quindi la lacerazione di un tessuto sociale non può che essere sanata da un atteggiamento di reciproco ascolto, diversamente si darà sempre origine alla vendetta che non avrà mai fine. Quindi ecco, per me era un tema molto umano, molto vicino alla esperienza che ho vissuto io e da direttore del carcere minorile e anche che ha tematiche che hanno riguardato molto anche questa pandemia, no? In cui il rischio, forse ahimè non siamo riusciti a sottrarci a questo desiderio di individuare un capro espiatorio e di opporci gli uni gli altri invece che condividere un destino comune. Grazie Paola, e allora ricordo che il libro verrà presentato il prossimo mercoledì 15 settembre alle ore 18 in Piazza Coperta, quindi in Sala Borsa. Ci saranno per l'appunto tu, l'arcivescovo Zuppi e anche Adolfo Ceretti e la giornalista Luciana Apicella. Sì. Ringrazio molto e speriamo di vederci presto, sempre su. Grazie a te, grazie a tutti. Ciao. Arrivederci. E abbiamo appena ascoltato Paola Ziccone su questo libro Verso Ninive, anche questo incentrato sul tema della giustizia riparativa. Avete sentito anche tanti ospiti e ne sentirete ancora sempre su Liberi Dentro Du Radio su questo argomento. Ci ridiamo appuntamento a tra poco. La rubrica a seguire è di musica con Jailhouse Rock. Scriveteci redazione liberidentro@gmail.com oppure attraverso la posta Chiesa Santissima Annunziata, via San Mamolo 2, 40 136 Bologna. E un saluto da me ovviamente e anche da Antonella e ovviamente dal nostro Enea Flacco al montaggio di queste puntate. A domani, un saluto, ciao a tutti. Liberi Dentro e Du Radio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.